Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Giampaolo Barbetta. Buonasera. Il professor Giampaolo Barbetta è professore di politica economica all'Università Cattolica di Milano e ha curato, insieme a Giulio Echia e Nereo Zamaro, il libro Le istituzioni del non profit in Italia. Il professor Barbetta segue da tempo il problema del non profit, dirige un centro di ricerca dell'Università Cattolica dedicato appunto al volontariato del non profit, e in questo libro si raccolgono vari spunti, vari elementi, varie analisi che fanno il punto sulla realtà del non profit. Ecco, mi sembra che uno dei temi di fondo di questa realtà sia la sua crescita, il fatto che sia a livello di numeri, di istituzioni, di imprese, di società, di associazioni che fanno capo al non profit, sia a livello di partecipazione ci sia una realtà in profonda, in forte crescita in Italia. È così, professor Barbetta? Sì, è così. I numeri che abbiamo analizzato mostrano effettivamente una forte crescita nel decennio che va dal 2001 al 2011, sia nel numero delle organizzazioni non profit, in particolare di quelle con maggior vocazione imprenditoriale, come ad esempio le cooperative sociali, sia nel numero di addetti, quindi di persone che lavorano per queste organizzazioni con una retribuzione, che nel numero delle persone volontarie che prestano gratuitamente i propri servizi. Ecco, ed è una realtà che si estende al di là di quella tradizionale del welfare, dell'assistenza, dei servizi sociali propriamente detti, ma il non profit comprende anche molti settori, quello della cultura, quello dello sport, quello del tempo libero, quindi è una realtà estesa anche sotto un profilo, diciamo così, sociale, professor Barbetta. Assolutamente, il numero di organizzazioni attive in settori diversi da quelli tradizionali del welfare, appunto come lei citava, i servizi sociali piuttosto che la sanità, è effettivamente molto alto. Ci sono organizzazioni attive in campo culturale, in campo sportivo, in campo ricreativo, in campo ambientale. E poi ci sono profonde differenze interne, ad esempio le organizzazioni attive nei settori più tradizionali della sanità e dei servizi sociali sono prevalentemente basate sulla presenza di lavoratori retribuiti, mentre quelle che operano in campo sportivo piuttosto che in campo culturale, in una certa misura anche in campo ambientale, sono prevalentemente organizzazioni di volontariato. Quindi abbiamo di fronte più di un settore non profit nel nostro paese. Ecco, forse è importante sottolineare anche questo. Spesso si pensa al non profit essenzialmente come volontariato. Il non profit è una realtà che prevede all'interno dell'impresa anche figure professionali che quindi giustamente vengono pagate, ma è la finalità dell'impresa, quella di non essere per profitto, non avere come scopo il profitto, ma avere come scopo una presenza sociale. Però ecco, questo non esclude che al suo interno ci siano dei profitti individuali, chiamiamoli così, che sono però il giusto compenso per una professionalità. Assolutamente, ci sono retribuzioni, ovviamente, gran parte certo. Delle persone che lavorano in questo settore o per queste organizzazioni lo fanno dietro compenso. Abbiamo stimato con i dati del censimento che esistano quasi 1 milione di lavoratori dipendenti, full time equivalent come si dice in questo settore, e a fianco di questi lavoratori dipendenti e retribuiti ci sono poi ovviamente un gran numero di volontari. Quello che caratterizza il settore non è di non distribuire retribuzioni, cioè di essere basato esclusivamente sul volontariato, ma il fatto che gli eventuali profitti, quindi gli utili che restano alla fine dell'esercizio, non possono essere distribuiti a soci, azionisti, partecipanti, ma debbono essere riutilizzati per migliorare la qualità o aumentare la quantità delle prestazioni che queste organizzazioni erogano ai loro utenti finali. Ecco, quindi c'è un rapporto diretto, un rapporto stretto tra chi è dipendente, quindi retribuito, e chi è volontario, comunque che dà il suo apporto, non magari a tempo pieno, ma secondo le necessità a queste organizzazioni. Ecco, c'è una crescita anche qui, parlavo di crescita fin dall'inizio molto forte. Un dato forse curioso del libro è che la crescita più forte dei volontari è a Trento, più 350% in 10 anni. Probabilmente è motivo, e qui introduciamo un altro elemento, di normative che facilitano questa presenza dei volontari. Probabilmente la provincia di Trento ha realizzato delle regole interne che aiutano molto il volontariato. È così, professor Barbetta? Sì, sicuramente è una questione di normative, in una certa misura è anche una questione di rapporti tra amministrazione pubblica e terzo settore, settore non profit. A lungo si è pensato che il settore non profit potesse essere un sostituto dell'intervento pubblico. Quello che si vede invece in maniera molto decisa è che i due settori, le due attività sono in realtà complementari. Cioè, nelle parti del paese dove vediamo un'amministrazione pubblica più impegnata e più efficiente, vediamo anche un settore non profit più attivo. E quindi questo spiega, per esempio, una maggior presenza di organizzazioni non profit e di volontariato a Trento, come lei citava, e una presenza, ahimè, purtroppo più bassa nel sud del paese, in coerenza con una macchina complessiva che è in grado di fornire servizi di welfare più scadente in quell'area del nostro paese. Ecco, questo potrebbe apparire paradossale: dove c'è più bisogno c'è meno offerta di questi servizi di welfare da parte delle organizzazioni non profit. Ma sì, perché direi il non profit è complessivamente l'espressione di una sensibilità civile da parte dei cittadini che probabilmente si manifesta nello stesso tempo sia da una parte in buona amministrazione pubblica che dall'altra parte in presenza massiccia di organizzazioni fatte da volontari. Probabilmente sia l'una che l'altra dipendono da un qualcosa che sta prima, che potremmo chiamarlo civismo, voglia di partecipazione, voglia di controllo, che in alcune parti del paese scarseggia più che in altre. Ecco, ma questo potrebbe essere favorito, il fatto appunto di dare spazio a queste organizzazioni, anche da uno scenario normativo, da un quadro di leggi che siano più favorevoli. È stata approvata l'anno scorso una legge sul terzo settore, stanno per essere varati, sono stati varati alcuni, altri ne verranno, dei decreti delegati. Ecco, c'è ancora molto da fare anche a livello legislativo, a livello di strumenti regolativi in questo settore per favorire appunto una crescita del non profit, professor Barbetta? Sì, con la legge dello scorso anno sicuramente abbiamo fatto un passo avanti, perché perlomeno per la prima volta abbiamo definito in maniera unitaria questo settore. Prima avevamo pezzi di legislazione sparsa che si occupavano di volontariato, di cooperazione sociale, di associazionismo, di promozione sociale, di fondazioni e così via. Ora, in prospettiva, perché come lei ricordava la legge richiede dei decreti delegati che non sono ancora stati completamente emanati, dovremmo avere un quadro normativo più chiaro, definito, unitario, e quindi da questo punto di vista un miglioramento sicuramente lo vedremo nei prossimi anni. Ecco, certamente restano... Scusi. Prego. No, restano ancora da fare. Certamente restano alcuni temi regolativi che andranno affrontati, tipo quelli relativi al controllo della qualità dell'azione delle organizzazioni e alla trasparenza della loro azione. Ecco, il libro si conclude con uno sguardo oltre i numeri, oltre il censimento. Gran parte del volume è dedicato ad analizzare appunto i numeri delle realtà del non profit, e si parla di economia sociale, cioè di una realtà che comprende in maniera più larga questi aspetti di un'economia non tesa unicamente, pur con tutto il rispetto che merita, alla produzione vera e propria, ma tesa a rispondere ai problemi del benessere, potremmo dire del bene comune, quindi il volontariato, il terzo settore, il settore non profit, tutte quelle realtà che compongono un'attenzione alla società. Ed è una realtà abbastanza ampia, sono più di 2 milioni di occupati, si dice appunto nel libro, e quindi che può offrire anche una prospettiva di crescita per l'occupazione. Uno dei temi, direi uno dei problemi italiani è proprio quello dell'occupazione, soprattutto giovanile. Può essere questa realtà una risposta anche alla necessità di creare posti di lavoro? Ma sicuramente lo è stata negli ultimi anni. Come citavamo all'inizio, sia il terzo settore che quella componente che fa parte dell'economia sociale, che non è invece parte del terzo settore, quindi l'intero settore della cooperazione, nel nostro paese è molto cresciuto negli ultimi anni e quindi può certamente rappresentare un contributo alla crescita occupazionale. bisogna anche avere bene in mente, questo è uno forse dei capitoli più interessanti del libro, il settore è caratterizzato però da una forte mobilità interna, vale a dire se il numero complessivo di organizzazione di occupati è cresciuto, è anche vero che molte organizzazioni sono nate e molte organizzazioni certo. hanno cessato la propria attività. Quindi un po' come in tutti i settori assistiamo a crescita insieme a molta turbolenza interna. Credo che una delle scommesse sarà proprio quella di, soprattutto appunto per aumentare l'impatto occupazionale, sarà quello di riuscire a favorire la sedimentazione, il rafforzamento di organizzazioni, perché molte nascono ma molte smettono anche di operare. Certo, peraltro, per concludere, professor Barbetta, il settore dell'economia sociale in Italia ha una grandissima tradizione, le cooperative risalgono non al secolo scorso ma a due secoli fa, le cooperative di lavoro, le cooperative di consumo, cioè mettere insieme il lavoro e il capitale, quindi ha una tradizione molto, molto ampia. In Italia possiamo concludere dicendo che avrà comunque anche un futuro magari non radioso ma essenziale nella realtà della società italiana? Ma io credo di sì, perché in molte aree di attività stiamo riscoprendo le ragioni che possono portare a vedere imprese di tipo non capitalistico come più efficienti rispetto alle pure semplici società di capitali. Si pensi a quello che sta succedendo ad esempio anche negli Stati Uniti nei settori delle public utilities, dove appunto l'idea di mettersi assieme per produrre beni o servizi che rispondono alle esigenze di una comunità locale sta vedendo lo strumento della cooperativa come uno. Quindi sì, io penso che ci sarà una riscoperta di questo tipo di organizzazione. Grazie, grazie professor Barbetta anche per questa analisi, in fondo una prospettiva ottimistica anche sulle capacità della realtà italiana di rispondere alle proprie esigenze di far crescere il benessere collettivo e anche individuale. Abbiamo parlato del libro Le istituzioni non profit in Italia con il professor Giampaolo Barbetta, il libro è curato assieme a Giulio Echia e Nereo Zamaro, edito da Il Mulino, sono 304 pagine per 29 euro. Grazie anche ad Andrea Roccabella in regia e Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.